Ich das sehr angenehm. Hopp. Etschu. Ah, Giulio. Una volta questo ha preso l'utente Antonio e gli ha fatto il buco, te la ricordi? Ricordi quando Baldo ti ha saltato sopra? Zitta! Baldo! Quello perché stavo lì con i regalati, infatti mo quando lo vedo me ne tiro. L'una te l'ho dovuto buttare. Sì? Perché non le hai tenute come ricordo? Le mutande bucate. Sì. No, oddio. Guarda questo. Un roba. Cos'è? Un registratore. Perché che registri? Registra, magari lui fa... È quello che si sente qua. Oh, quanto è carino. Oh, i muscolocci. Il suo petto.